Chi è? Avanti. Chi è? Ciao Gio Maria, buonasera. Buonasera. Allora Gio Maria, mi ascolti bene? Io ti sento sempre bene. Sono dentro camera, ho cambiato il gommino, guarda come mi stai ricevendo. Va bene, si è fatto da scala qua. C'aveva problemi l'altro gommino, gli ho messo un altro gommino nuovo e dunque vedi che le cose vanno bene. Sì, sta andando bene, tranquillo. E allora? Sto a posto, sì. Fino adesso sembra tutto a posto. In campagna acceso ci sei. Ho questo freddo, non saranno. Ci vuole il piumone. Oh, cazzo. Non è finito se vuoi tempo fa scendere tutti i giorni. Ogni tanto ci scendo quando devo fare qualche cosa. Poi con questo vento che si è messo accanto il vento. Ehi, ci siamo suonato, dai, mi assento, che è venuta gente, già ci sentiamo, dai. Marmitto sì. Chi è? Un po' tristo. Hai visto che sto facendo il bagno in mezzo alla cisterna del latte, pinne, maschera, boccaglio. E già si vede che sei tu, sei capito riconosciuto. Avaromando a Francesco Pugli, all'inizio di giugno, a Franco. Ehi, manda video. Mandate via. ma dice a mandare per processa un video che mi ha mandato. Dice se fai nel bagno con un attimo. Come gli antichi romani. A me non si nutre la pelle. E a lui. Roba antichissima. Ma mi pare un po' un mezzo gay. Sarà mezzo gay, o mezzo voi. Non è proprio un pastorello. Terrazza. Pastora. È macco o è macca? Tu cosa ne dici? Macca. No, che maschio, mica è femmina. Siamo metà e metà, va. Metà e metà, via. Ieri non c'eri, no, in campagna. No, io sono andato via prima, ma c'era nessuno in radio. Avanti, Pip, chi è? Io, Pip. Poi c'era coso, a casa, vabbè. Anzi, ho qua acceso, c'era Gio Maria, Baracchino, 23, con Tore, mi sa. Arrivo a casa e non c'erano più. Tra una cosa e l'altra sono arrivato a meno 10. Chi è che hai tu io? Avanti. Ehi, ascolti. Bacchisio, sì, avanti, buonasera. No, io ci mancherebbe. Un po' basso il radio, sì, avanti, grazie. Ciao Bacchigio, ben sentito. Non disturbi mai, non ti preoccupare, entra quando vuoi entrare, me lo fai. Eia, ok. E beh, e cosa hai fatto? Alla faccia di... Ma non hai detto che l'ha detta, Luca. Sì, a dieta, ma a chi sa cosa è? Ingrassati il vasi. Ma chi? Ma te l'ha lasciato il monitor Marino? Luca! Chi è che chiama? Marino sta chiamando, ciao Marino, ha chiamato a te Luca, aspetta che te lo spieghi, vieni avanti Marino. Buonasera, sono con Gomino, sono al piano di sopra. Sì, io sento. Ma io non lo sento, grazie. Va bene, la bacchisa che non sento. Avanti Luca, mi ascolti, sì. Marino, ha detto che non si sente Luca, mi senti? Grazie, sono con Gomino, sono su a casa. E sto aspettando che venga mia figlia e poi scemo giù e... Diglielo, grazie, se l'ha lasciato a Bacchiso il monitor. Marino, stretto Luca, se il monitor l'hai lasciato a Bacchisio. Sì, l'ho lasciato a Bacchisio. Sì, l'ha lasciato a Bacchisio, Luca. Vabbè, dai, casomai... domani... vediamo un po'. Se mi viene bene di passaggio verso mezzogiorno e mezza, tanto già c'ho il numero di Bacchisio. Ehi, sta scendendo giù Marino adesso, magari se lo senti meglio. Ok, dai, non lo sento per niente, nulla. Luca, non ascolti? Lo senti adesso, ma richiamalo. Luca, guarda in questo passaggio se mi ascolti, uno, due, tre, prova, avanti. No, non lo sento, sento che parla, però non capisco niente. Non ti sente Marino, sente che parli però non capisce. Va bene, grazie, grazie, già mi sono più tardi, dai, che sto aspettando un attimo. Io da qua dove sono adesso sento a tutti, tutti, tranne che a lui. Marino. No, perché ha detto che è col gommino ed è al piano di su. Appena viene la figlia se ne scende giù. Eia, prova. Cosa hai detto Lu? Marino. Adesso ti ascolto bene, Bacchisio, avanti. Ok, mi ascolti, sì, io emo. Tu sì, tu parli mi ascolti. Aspetta, guarda adesso, se mi ascolti adesso, in questo passaggio no. Guarda se mi ascolti. Basso il radio. Basso il radio, Bacchi, avanti un altro passaggio. Guarda un po', uno, due, tre, vai. Video. E questo era piccolo che ho ancora fatto adesso. E lo stavo provando. E dai, continuate. Il monitor sono io, Luca, in garage. E dai, Bacchi, dai, appena domani magari. Quando... quando sto rientrando, che scendo qua, passo, me lo prendo, se sei disponibile. Sì, da mezzogiorno e mezzo sono io, da mezzogiorno e mezzo mi trovi. E il tuo amico è venuto a regolarmi il file, cosa del lampeggio, mo domani. Non c'è venuto, cazzo, micidiale, boh. Fatto che l'ho chiamato, chiamato l'hai. Il numero che ho chiamato è inesistente, eppure quello del suo, e mi segnava inesistente, e allora non ho chiamato più. Capito? Adesso lo chiamo io, aspetta. Grazie. Ho finito, adesso ritiro tutta l'attrezzatura. È una prova che stavo facendo e funziona. Ma l'antenna ti hai fatto? L'antenna stavo provando. Mi è venuto il flash stasera, il flash up, forse funziona, e va. E va. Meglio così, basta che funziona. Dammi un antennino. Un pezzo della macchina, l'antenna è un pezzo dell'altra. Messi insieme funzionano. Eia, eia. Meglio così. E stazionale non ne hai. Marino non arriva, ci metto, arrivavo basso, forse perché se lo metto fuori forse va di più. Adesso è sul tavolo così appoggiato. Eia, e magari esterno funziona più di più. Bacchisio. Ma che numero gli do? Siccome dice che ha cambiato il telefono lui. E il tuo numero l'ha perso. Forse si è memorizzato nel telefono. Quale numero gli do? Quello che mi ha dato l'altra volta? Quello Wind. Hai capito? Quello che finisce con 22. Ah, ok, dai, adesso te lo mando. Perché quello c'è sempre in tasca, l'altro ve lo lascio in macchina. Sì, gliel'ho inviato, dato che ti chiama comunque domani, un pomeriggio, che te lo fa. mi chiamare, però perché io non sono solo in garage aspettando a lui, no? Comunque mi ha detto che mi sa che non si può manco regolare, quello è il tempo. Comunque ha detto che viene te lo fa, dai, te lo controlla e vediamo un po'. Bene, vale, ci vediamo domani, non ce la faccio. Perché prima non c'era corrente nei tappi, sistema tra io. Solo che non so per regolare il lampeggio, non lo so, solo me l'avevo fatto io. Ah, ho detto a far lui, dai, gli ho mandato un numero, vediamo un po', a dove ti chiama. E più di grazia che mi ha ritirato tutto lo tavolo, sto mia moglie mi butta fuori tutto. Eia, eia, ok, riprendi il muro, cosa devi fare col muro? Mi serve, perché ne ho uno a casa, e uno lo porto qua, capito? Mi serve per lavoro. Ah, ma lui è per il computer. E allora? E già andava. Andava sì. Per lavoro. Via. Già è buono. Beh, grazie, dai, mi assento una ventina di minuti. Se rimango in ascolto. Eia, eia. No. Un po' tristo. Eia, non lasci la donna nuda, no? Ah, la donna nuda, cosa riprendi? E tu cosa riprendi? Niente, mi leggendo un articolo nel cellulare. Cosa? Leggendo un articolo nel cellulare. Ah, ho capito. Chiamati, che facendo c'è? Non la gente si banda, ieri era il suo compleanno, mi ha mandato la duccia, la fotografia. Boh, io mica ne sapevo, non la so la data sua, comunque auguri a Gio Maria, sei in ascolto, anche se in ritardo, vabbè, non lo sapevo. È nato il 10 febbraio, invece mamma il 9. Mi sembra che è 84, se non ricordo male, gli anni. E ho visto la mamma sua, gliel'ho scritto a un... Mamma ne ha fatto 73. E Gio Maria è 84. Beato che ci arriva, lui ci è arrivato. Nonno è diventato vecchio, oramai. Non è che pure un computer quando si è donne nude, no, grazie. Avviso mio, tu dici di no, e magari sempre i furrugelli. Allora, pure secondo me, ma. Tu dici di no, però sotto sotto non lo sono. Sotto sotto c'è chilling. E allora, ma chi si è separato con l'antenna? Marino è sparito. Io grazie a poco a mangiare, c'è come da mangiare. Oggi gioca a mal di barca. Oggi leggero, brodino, fagiolini e patate, sarsizza, gazzo e mortadella, cucci di bestie. Capito, mal di pancia, a me mi pare che sia una vinta mal di pancia, ma che c'è qualcosa, la tua moglie che dice, gioco a mal di pancia non mangio, le mangio tutti io. Anzi, ce l'ho ancora tre volte in bagno che sono entrato, quando rigida che c'è a pancia mia, Magari sei intollerante a qualcosa, male anche all'attusio. Cerca di stare attento a quello che mangi. Ma se mi ha mangiato un brodino di pollo, leggero. La minestra era succhetta, come all'ospedale, di fagiolini, un pezzo di caro reggiano, un pezzo di mortadella. Ma con frutta... Però, cioè, quando sei così, basta prenderti eterogermina. Una, la seconda te lo blocca, vai sul sicuro. Se soffri di queste cose, io ci soffrivo prima. di continuo e ho lasciato il latte normale e ho preso quello senza lattosio, grazie a Dio sono già, cioè ogni tanto sì, ma non è di continuo, ecco. Prima, una volta che mangiavo quel latte lì, bevevo quel latte e ciao, ero fregato, non potevo manco uscire di casa. Ma a me non è quello, latte non ne mangio, se mangio latte non me ne bisogno più da rubare. E io è perché ho il morbo di Crohn, retrocomitio ulcerosa e quando si rilassa mi fa in vena a basta. E tu regolati a quello che mangi, mangi poco pasticci, un pezzo di pandotta, un pezzo di durroni, e mandorle, e noci, e mangi poco pasticci, queste cose, mangi di tanto così, vero Bacchi? Sì, Cristiano, non devo mangiare così tanto. I canotti, mangiate un cubo, il capito, ma non mangiamo, uno più leggero. E forse la luce si può incontrare per pigianti, fa male la banca, fa male i bisi, fa male un capo, un crocco magno di grazia. Guarda che sono già 2 minuti che mi faccio il tè, e 2 fette biscottate, con il limone e la marmellata, gli metto un po' di marmellata nelle fette biscottate, 2 per 1, e nient'altro. Va peccato, poi sta a fare sempre il cioccolato, così che non lo mangio. No, non ci sono messo a mangiare, ce li ho messi, però no, non è periodo, e quando ha periodi. E a me mi pare che c'è tutto marmellata, è tutta roba sostanziosa. Invece fate un brodo di zea, un po' con insalata. No, verdure non ne posso mangiare niente. La giudizio all'ospedale mi ha fatto lo scandalo una vecchia in Bavizzulo, pure le bietole all'ospedale, passato il medico mi ha detto che gli era dato questo piatto. In camera d'aggio, visto che è passato. Ma tu non ne puoi mangiare, Bozzaretti mi ha fatto, me l'ha pigliato, rubiato da sottare un altro. La dice scusi, mica me l'ha detto lì l'altra volta che le potevo mangiare. Boh, chi la mandi? Io, le pietre allora niente, grazie. Niente pietre allora, non puoi mangiare le verdure con la foglia. Oh, verdure, minestrone, per dire, non ne posso mangiare. Sì, io mi faccio pasta e fagioli. E ci metto una carota a pezzettini a dadi. O ci metto la carota o ci metto un pezzo di seta, non capito? Però una verdura, capito? Non di più. Se no mi va di trottare tutta la in bagno, capito? Capito. Scorrenzia con tosse. Nuovo. Lasciamo dove tu puro. Luca, dagli un consiglio tuo a Graziano, cosa vuoi mangiare stavolta? Ah, secondo me gli conviene rottamarsi, quasi prima. E allora, hai visto brutto, già per la giudizia di finale. La città cosa mi ricorda qua, se sono da rottamare, mi mandi la marcia. E sono poi arrivi. Sai cos'è? Magari è anche dovuto al diabete, io c'avevo da prima questo problema. C'ero dall'età di 23 anni, solo con il tempo mi ha detto vai peggiora, i 2 anni passano e peggiora, sì la cura ce l'ho, però non sani mai, capito? Te la tieni un po' regolata e buh, capito? È l'intestino che è andato, ma in non si può operare perché è tutto sparso, se me l'ha spiegato, me l'ha detto. Anzi, l'altra volta mi voleva ricoverare, me ne voleva tagliare un pizzo. La dice no, lasciamo perdere. Mi dia qualche altra cosa, già mi avrà passato. Perché mi era aggiunta una pizza fortissima. Ho fatto il video, mi ha fatto tutto, l'ecografia. E mi si era ristretto un bel pezzo di intestino. Invece con quelle altre medicine che mi aveva dato, si è dimesso quasi a posto, là. E andava in graffiato, lo puoi fare. Alla vecchiaia vengono tutti i malanni, tutti, arrivano tutti i malanni alla vecchiaia. E allora, sempre una cosa mi rompa, pucciati sì. In aria. E c'è un bel coso, trucchetti che è pronto sempre con le mani pigiate. E oramai non ricordi via, ve ne so pochi, in agguato. I vampiri mi so i vampiri. Alle femmine domanda, dice, ma sai l'uomo morire tu? Pure a te, ma che sei vivo, ti domandano, ti datene già il bigliettino, quando intende il fianco di paure. Mogano, mogano, non avvette nulla, tutti mogano. Oh, tanto che ci ripari, uno pare l'altro. Quando ha giù interrato la tuba di mamma, mi avrà detto che ci è molto l'infarto. Ha messo la tumba sotto, no, e vede la cassa di vapo. E dice, per aprire sotto bisogna levare questa cassa e rompere più sotto, perché era più sotto il posto, no? Ha pestuccato il baule di vapo e lì si è frabbinato in mano. E cosa vera? Ne manca un anno il baule di vapo. Prende la tumba ed era asciuttami la tomba. Figura di arrasta di legna buona li trattano. Ma legna buona è colorata, dice che è noce, la dice cosa, la tinta è la noce, ma la tavola non si sa cosa è. Vabbè, grazie, tanto già c'è ci sono le lamiere che sono saldate, il morto non lo vedrai mai. Chi te l'ha detto? Ma quando l'è fatto a mio suocero per levarlo da lì, perché era scaduto il tempo e poi l'ho fatto cremare, l'ho messo con mia suocera. Era scoppiata la lamiera, la lamiera zingata, tutta pratica. Praticamente non ce n'era più. E poi lui era in tre, come cercando l'hanno sarrato. Lo scheletro c'era. E allora mi ha detto, questo bisogna portarlo a cremarlo. Ha richiesto la crema. L'hanno pigiato in tre, hanno detto di buono un tocco, crac, crac. Quanti l'hanno pigiato anche, a chi era lungo, no? Se hai buttato un sacco bianco, se l'hanno buscato a cremare. Ma sai cosa è copiata c'è la mia grazia? Anche non vedo la valvola di sfiato. Avanti è obbligatorio sopra di porre una valvola di sfiato. Quando arrivi che da pressione che si apri. Non lo so, io ho aggiunto i bauli, già ne ho visto bauli, sono andato anche dove li fanno lì a Plattamona. E già l'ho visto. La verità è buchi non ha giusto le ricarcasse di lamiera di vito che poi li mette dentro il baule e poi li mettono il rivestimento. Erano tutti sigillati. Li saldano a stagno, dovrebbero lasciare uno spazio, un paio di spazi senza saldare il tappo, capito? E da lì spiazza l'aria. Evidentemente l'hanno saldato tutto ed è esploso. Con i gas della persona, no? Nell'arco del tempo è esploso. Chiaro che esplode, tutto i gas che si accumulano all'interno vicino. Ho una batteria per i vicini. E il zingo. Hai visto che è morto, grazie. Ega. Picchia capo dopo. Sì, no, non ho preso il giornale, già. Si chiama Michele Cabotopo, questo che camminava abbigliato sempre con l'ampola di vita in mano. Ma in opera, Michele. Altidozzi, Santa Altidozzi. Cabotopo lo chiamava sopra, e vai in giornale. Però non l'ho preso il giornale. Ma cos'era? Il fratello del Rabazzone? Non lo so, Michele Pinna. Non credo. Mi sa il fratello di... No, ma neanche il cicottino, no. Non lo so. Comunque, il grigio che drummia, ultimamente era drummente alla benzina all'ufficio di collocamento, che c'erano quei cartoni in terra. Ah, già l'avevo visto quei cartoni. È morto, già mi rammento, dai. Già lo conoscia. Cioè, se vuoi te lo mando il giornale, aspetta. Già lo credo. Questi rimarranno se la varangugli giù. Che sta in carriera così. Io riprendi i bacchi. Così è. Anche a lui è arrivata l'ora, grazie. Guarda, mia moglie stava chiedendo se la madre si chiama signora Bastiana. Non te lo so dire come si chiama. No, non me lo ricordo. Ah, già lo conoscia, già ella. Aspetta, mi ha chiamato mia moglie. Basta. Sì, ella. Vedi un po'. Ma che non state più in carriera. Tutto dopo, povarino, ragazzi, tutto incicciato. Già è lui, sì, insomma, tante volte l'avrei visto lì. Stava sempre con questa bottiglia della birra in mano, tutto un ciò al collo piegato. Chissà, tu su, ma secondo me dall'alcol. Era sempre con questa birra ogni santo giorno, la mattina presto anche. Il corpo poi ne risente, è inutile. Magari non mangiava neanche. La porta di birra era. La porta di birra è sempre in strada, trovava qualsiasi ora lì in giro. Asceva il bastone ultimamente. Io l'ho visto, l'ultima volta in tram, cioè vabbè, con una bottiglia di birra in mano e una in tasca del giubbotto. Quanto sarà? Un mese fa circa. Sì, la riserva, se mancava la benzina non camminava il motore, così lui fa la riserva. E era in giro sempre qui a Assisa, oppure lì vicino al semaforo. Lo incrociamo sempre, forse abitava nella zona di Torre Pinna. Non lo so, questo non te lo so dire. Comunque so che abitava lì zona Latte Dolce. E poi anzi abbiamo visto, quando è? Che ha fatto la festa lì a Latte Dolce, quando era? D'estate era, no? E lì qui c'era la festa a Latte Dolce, c'era Luciano Galleri. Cioè, eravamo io su Cristian con la ragazza. C'era anche lui, si poteva ballare. Latte Dolce. Non ce la fa ballare. Come? Era lì, era che cantava, quando sei musico con capo cantava. Grazie, sei arrivato. Grazie, sono andato in ufficio a timbrare. No, l'ha chiamato la moglie, ha detto Bacchi. No, l'ha chiamata la moglie? Eia. Poi ci ha fatto un freddo però, Oggi ha fatto freddo. Perché è venuto un tipo, siccome gli ho messo a posto dei telefoni, stavo parlando, a mani all'aria, così, mi ha cancarati, freddo, ma devo dire freddo. Oggi è andata fredda, chissà che è migliore. In campagna si poteva stare, non si lasciava in piedi, un freddo gelido, un ventaccio, non finiva più, un casotto. Invece arrivare la primavera, invece mi stia arrivando l'inverno. E più, vabbè, il vento, partiamo già la freddo, e più il vento ti secca, in campagna poi, no? E vabbè. Sai quanto ne è preso fatto in campagna, Bacchi? Sì, in campagna no, ma quando lavoravo negli appartamenti non c'erano finestre, né porte, né niente. Corrente lì, ti hai svegliato. Posso immaginare. Casino, purtroppo lo dico. Bisogna lavorare. Se ce n'è, si lavora, se non ce n'è non si lavora. Cioè, sì. Vedi Graziano, invece Graziano è sempre al chiuso, in camion, finestrini chiusi. Cosa? Avessi guidato il camion che guidavo io prima però, entrava aria da tutti i bacchi. In inverno guidavo con tre mante in alto, all'anchi e in capo. Giubbotto, colpo, cappello, sciarpa. Entrava aria da tutti i bacchi. Un sacco, tutti voi diventano un sacco. La mascherina pure è un cambio, gli puniamo pure un cacione nella griglia dove c'era il radiatore, attende a Milano, adesso che ci arrivi a Milano, un pinguino, una pulla di boncio caldo, mi lavi 10 minuti in un bar. E infatti hai fatto lo pinguino, l'hai fatto, ehi, aspetta. Non è così freddo, no, in cambio si piace bene, c'è il riscaldamento, è tutto. Ehi, dopo più là, ma alle prime arti, tu ti fai invece a giù guidato, lo 43, l'82, e motrice rimorchio, tutta roba, macchine vecchie, antiche, là, diciamo. Ha ricominciato col man turbo, tre assi, quello c'aveva servo sterzo, cabina letto, riscaldamento, quello c'aveva tutto, ma tutti gli altri prima di arrivare a quello, il primo buono che ho avuto, mi sono passati di anni, oh yeah, non di grotto, con i marci di manubrio. La guerra viene fatta in cigano. Sì, ma tu devi stare, buoni come intechisti non ne fate ne più, curaturi come quello lì non ne fate ne più, ma non so, usa e getta. Lo so, buoni erano buoni, anche come motori erano i trattori. Però le comodità non c'erano. Purtroppo erano così prima le macchine. L'udicrotto va a girare un manubrio che andrà un carico, mi doveva pure in piedi e molleggia, se no gli hanno invasiti di manovra già. Oh yeah! Anche in due non girava il manubrio, a chi non ve la faceva lassù, a chi si ammazzava. Non era un trattore, non era un camion. Il di grotto, quello con le marce sotto il volante, quello, il lupetto. Ricordo, il lupetto era la stessa famiglia, sempre con le marce a volante. E poi quelli non c'erano il servo stesso, la via di droguia, la via di nuda, erano diretti. E allora, poi buono auto ha avuto il 110, il 662, e 1M, anche quello, OM frigo, era c'era frigo quello, era tutto frigorifico. Con quello trasportavo formaggi e salumi, prosciutti, tutte quelle cose così. E buoni, poi in seguito ho cominciato a fare camion buoni, là. Il 170, servo sterzo, riscaldamento, cabina letto. E poi seguito il 130 e la girata di camion, oh yeah, e di là l'abbiamo voluto i bacchi tutti sui camion. Ma sì. Allora, ultimamente ha subito il coso della Iveco, mi sembra che era la polverone, però un CP, ma non è un coso, un trattore, no. È una gamma da letto e soggiorno. Adesso sono, come ti dice, busato in poltrona. Vai giù, se non lo guidati. Quelli dell'AGP, quando era l'AGP, alla ESO ho lavorato da 3 mesi. Sedile ammortizzato, con l'ammortizzatore, tu vai. Che cosa non fa? Fare busato in soggiorno. Boh, non sempre neanche in camion, un manubrio lui gli con un dito, un giocattolino, però c'è tutti i comfort, un caldo di muri con l'aria condizionata, cioè come te prima adesso fare l'autista e fai proprio il signore. Adesso la roba da signori, vabbè. Prima costavano poco, adesso costano svariati biglietti da cosa, da 1000 per il camion. Però, ripeto, quando sono camminenti tutto si muove leggero, tutto si fa, ma come voi si intende? No, il man turbo che ce l'avevo io, non aveva ammortizzatori, neanche balestre. Ci aveva soffitti, tutti i soffitti si chiamano, sono bolloni che sono pieni di aria, tutta d'aria. E non vi ne fermo, una specie di molle sono, però funzionano ad aria. Infatti quando veniamo diciamo una mezz'oretta a caricare, e poi si alzava anche il camion, ti regolavi l'altezza, tutto. Oggi c'hai tutto, c'hai il quadro in certi camion, chi pari la cabina di un aereo, tasse contro tasse ridotte. Viene poco di Marazzucchi, a quel manturbo ci aveva 26 marce. Capito, dopo 26, poi a Drusso era, dopo Drusso. Luca adesso è dormito, non abbiamo cercato più Luca. Mi ha parlato di Bonorba quando l'abbigliavo Bacchi. La zia già più di un quarto d'ora comincia a scalare a marci, prima di arrivare alla parata. A chi signora usa lì che pigliano i cicci, gli lascia dell'aria, culotto a botti. Sì, ma tanto è parata, arrivi prima, mi graziava, farà la troncatura. Ehi, lì mi si imbaglia poco poco e non mette le marce ridotte, come oscilla il contenuto della botte o benzina o gasolio. Allora non ti circudi, ma con di nabbi chi se ci trenta la danca. E benissimo, sono parlati ronchi, sono più se c'è una senza il lascia qui, dunque bisogna andare piano, Ivi, proprio ridotta. E poi in discesa ti spinge perché fa la culla, no, è liquido. E nelle curve dondola, capito? Si guarda il rimorchio quando fai una curva. E se bussato, lo vedi il rimorchio come dondola dentro. Striscia e si sposta, no? Fa ta ta ta ta ta. Si tende a camminare di traverso, nelle curve. Si butta, va. Dunque sei un poco veloce e si butta pure. E si chiude in carriera subito, se non sei pratico, t'ammazza, sai quanti colleghi che erano alle prime arti che stavano lavorando con me, che si suicidi di fuori strada, proprio a distruggere tutto il rimorchio. E più di uno, tu renni da Oldo, tu renni da Nuvaru, nell'orientale sarda, più di uno, a me già me. Andata sempre bene, una volta me l'ho vista quasi quasi brutta, però già sono riuscito a tenerlo, rientrando da Haiti. E chissà cosa mi si sono impinnati di bene, però già mi è andata bene, no? Vuoto però, è vuoto, dunque è leggero. Tornando, noi le ali che andranno dopo Haiti, Haiti aveva scaricato e stavi tornando leggero. No, ma cioè, lì c'avevo gasolio di riscaldamento quando lavoravo da testuri. No, oggi lo sto facendo in genere, c'avevo anche il massimo 5 consegne, perché quella macchina era da 10.000 litri, avevano mi ha messo qui. Insomma, potevi fare con quella macchina 5 scarti, capito? Il giro stavo facendo e facevo anche i fornitori di benzina. Non è a guidarla così un autobotte. Se non sei pratico, prima infatti a me l'hanno fatto vedere insieme a un altro il funzionamento. Sono stato una settimana con un altro autista. E allora quella dell'Agi qui, l'autobotte dell'Agi, quella viene a portare la benzina sulla Vuti, mi pare sia lunga. Minimo 10-12 metri con la botte lunga. Ogni asfacimento dall'animale lo trae in essa. Mi ci ho lavorato io all'Aci, bianca là esso, ho lavorato. La giurata di lunghi di travaglio. Oh yeah! Io ero anche in comune, ho lavorato anche al comune qua a Sassa. ne ho tirato un po' da Nietzsche, da Noce, alla Gondrand trascorsi, adesso non c'è più qua, se ne è andato a Cagliari e poi se ne è tornato a Milano. E poi anche da fuori, ho lavorato anche fuori io, a Milano con il camion. Sì, guarda un po'. Guarda, hai girato, diciamo così, il mondo tu, da una parte all'altra, un salto a Milano. Senti, ehi, ehi, ehi, di pochi lati, là, di pochi parauri, mi. Ah, la prima che mi dicevi, ci mandava in subagli, tanto il posto, allora il lavoro c'era, lo trovavo subito. Ehi, è arrivato Luca, è arrivato, avanti Luca. Oh, signor Marchisio, buonasera. Oh, buonasera, signor Toro, buonasera, buonasera. Viene escucciato. E beh, come la va? Oh, freddo. Freddo, freddo, vento e freddo. No, che se, con caldo non si può stare. Tanto sono stato la campagna, un forro, ai suoi nocchi, che si casi da lì, grande Dio. E pure dentro casa ai nocchi si stati per, ma fura? Non si può stare fura. Graziano mie. E allora, ve un vento che si è interrato di cibuccia. A te, dottore. No, è uscito, è andato fuori. Che facendo c'hai? Che facendo c'è? Sempre facendo. Luca! Che facendo c'hai? Sempre facendo. E lui? Tanto badi. Se la riprenda, signor Bacchi. E c'è anche Graziano, c'è, capito? Oh, yeah. No, se c'era in corso, sto facendo un lavoretto. Allora, mi capita, te lo faccio vedere. Sì, me lo fai vedere, andare bene. Sì, va benissimo, un'invenzione. Sempre inventando, sì. Ecco, bisogna anche cercare di fare qualcosa per passare l'ora. Ah, che sussi. Quello va benissimo. Ragazzi, io chiudo, vi saluto a tutti. A domani, là. Ciao. Ciao, Tore, riprendi tu. Salutori circolari. Sì, ok, ciao, grazie. Stammi bene, a domani. E prendi Bacchi. Sì, ciao, grazie. Buona serata, buon correttivo, buon carica. Saluta la signora. A domani si coincide. Buona veda. Luca, avanti. Ciao, grazie. Buona cena. Saluta Paoletta anche da parte di Marina. Ciao. Avanti, Tore. Sì, ok. E allora, Luca? E allora? Niente, niente di che. Nulla. Qua siamo. Nulla di nulla, andate. Andiamo, andiamo, bobbo. Allora, si abbacchi. Sì, sempre così. Ma oggi chiamato mai, ho trovato una chiamata a mezzogiorno, poi non ti ho chiamato. Non so se era arrivata stamattina oppure la roba vecchia. No, ho capito, no. Ho detto, ci ho trovato una chiamata sul telefonino a mezzogiorno quando non ho seduto in macchina. Non, io non ti ho chiamato, non so se era vecchia oppure nuova. E sarà quella dell'altro giorno, che hanno da giù chiamato, che ti avevo chiamato a tutti e due i telefoni. E sarà quella lì, sarà. Andava bene. Però veloci la Windy a darmi il messaggio. Dopo due giorni, da che dove è morto ti avvisami. magari sei tu che non l'hai guardata, loro te l'hanno lasciata in coso, quindi in memoria te l'hanno lasciata, sennò già si cancella. No, c'erano due chiamate perse. E a tutto il direttore Pinna. Tutti e due? No, una ti ho chiamato io a un telefono, poi ti ho chiamato all'altro numero. Sì, quella tua ce l'ho vista, questa no, questa mi è arrivata oggi. Novità, andate. Oh, yeah. Dunque che abbiamo fatto? Subito, un altro giretto, ci facciamo e poi ci andiamo a prendere medicina. capito. Il cane è tutto fuori dai oggi, no? Oggi nuda. Sì, alle 5. Alle 5 l'ho portato, cazzo me l'ha un freddo, pacari dai, non si può di assa. Visto che mi va a camminare alla retra, che invece mi va via freddo di un muro. Però corto, io penso che freddo lo intendi. Io penso che lo freddo e il muro se ne ha piato i fratelli. E dunque camminava a Baccarisci. Infatti, tanto è così, tira. Manca che dobbiamo essere vento, pensa un poco. E l'ho portato lì al giardino, poi sono salito qua alla scuola che c'è vicino ai preti e sono sceso a casa. Ho fatto il giro, bastava passare in zona dove ti potevi scaldare. Sì, sì. E vabbè, ho giocato, faccio quasi ogni giorno un giro grande. Sì, lo sai cosa io. Se passi in quelle più segreti, ci passa la corrente che è tipo il capo rombo. Ma se lo sa sera mesmo. Già picchiava poco già. E vabbè, mo così fermo. Andava così. Ho fatto ogni anno un giro umano. Ogni volta che esco faccio il giro grande. Sia per lui che per me. Io, almeno ti allini. Almeno adesso fai un pezzo così. Domani un altro pezzo, poi arrivi a Platamola. Andiamo via, andiamo. Luca, ti siamo da cenare tu. Ma adesso io sto chiudendo, dai, che adesso andiamo a cenare. Ci sentiamo. Buonasera anche a voi, a domani. Ci vediamo domani, Pacchi. Ciao, buonanotte. Ciao, Toro, anche a te, riprendi. Sì, ok, ciao Luca, stammi bene. Riprendi, Pacchi. Sì, ciao Luca, buonanotte, buona carica. A domani, ce la vediamo domani a quell'ora lì. Benissimo, avanti, Toro. Sì, anda, beh, anda. Quindi è una cosa vera, chissà che hai fatto. Sì, piccolina, piccolina, per la macchina. Per la macchina, Toro. L'ho misurata uno e uno di stazionaria. Ah, una cosa minorita dicevi fatto, ma dalla 27 è passato a... ma quella dalla 27? No, questo. Ah, io ce l'ho per un antennino piccolino. Per questa banda qua? Ce l'ho io, però è piccolina come antenna, mi pare che sia 15 centimetri. Io ce l'ho, questo qui sarà 30 centimetri, non di più. La devo allungare anch'io, così la devo allungare, a portarla a 30 centimetri, a chi non piglia, guarda che la mita minorita, minorita. Questa sera le misurate le hai? Sì, no, era già pronta questa, no, me la sono fatta arrivare già pronta. Ah, anche quella di mio cugino, stasera l'ho misurata in stazionale a vedere un po' per la macchina. 1,8 di stazionaria. No, quella che ho io è poco, c'ha gli attacchi piccoli, c'ha. No, quello che io ho attacchi PL normali, tutto normale, solo che è alta come il rosso. È troppo alta quella, No, quella che ho io già è abbasso. Basta di cosa, mi pare che va uno va di stazionari. Quanto c'hai? Uno di stazionari. 1,00. E vabbè, io dico 1,00. E così quello che ho io, 1,00. Ci stiamo cercando di abbassare ancora, non abbassa, più di quel tanto non abbassa. No, più di quel tanto non abbassano, no. L'ho fatto anch'io così, e così rimane. Hai capito? Però è piccolina, C'ha il coso fatto a molla in mezzo, l'antenna. Però camminando non piglia nulla, se ti fermi già piglia. Allora, questa c'ho la carica, e questo dello stilo. Mi ha sentito Marino, era appoggiato sul tavolo qua, mi ha sentito Marino gioca la sua. Meglio così. E c'è questa dalla macchina, secondo me dove sei, se sei dentro un fosso non piglia bannunda. Addirittura. No, allora non è che te la sta bene, so. Boh. Boh, non lo so. Camminando, sta tranquillo che non piglia nuda. Quella della 27 che va in campagna da me, e in certi punti non riceve neanche il telefono né la radio, e immaginate un po' come la 27, zero riporto zero. Chi sei bella, eh? E adesso guardo io, ce l'ho una in acciaio con il pezzo che si avvita. Gira gira, mi vozzo, chissà, mi vozzo. Tu potete pensare che lì in campagna è zero, buco, non riceve nulla. Ti sposti di un metro e mezzo, perfetto. Davanti alla serra non senti nulla, nulla, né radio, né TV, né telefono, nulla, tutto morto, Anda, beh, anda. Vabbè, signor Bacchi, si mette mi sociamente. E ora anda pure a magna. Anda, beh, ci sentiamo domani, Bacchi. Sì, a te, grazie alla piccola chiacchierata. Saluti in casa, buona cena, buon tutto. A domani se coincide. Anche io sono arrivata l'ora, infatti anche io ho detto che devo chiudere perché anche per me è quell'ora lì. Ciao ancora Tore con la buona serata. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo.